Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Scopri di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, parole di Platone che ci aiutano ad introdurre il tema del primo dei nostri approfondimenti. Parliamo di gamification e di engagement economy, del protagonismo crescente, cioè del gioco e dei suoi meccanismi nella comunicazione e nel marketing, ma anche nei modelli di business, nel mondo del lavoro, della salute, delle politiche sociali e dell'educazione. Pudore e passione, fiaba e orrore sono solo due dei binomi vittoriani sempre attuali, così come i codici estetici, la sensibilità, le ispirazioni dell'era della grande regina inglese che torna a fare tendenza, ma in chiave punk. Questo è il tema del focus sui trend della settimana, nuovo appuntamento infine con il nostro Italian Factor. Parliamo di Made in Italy e arcitipico. La borsa della spesa. Mi hanno cercato ieri sera dall'ufficio di tuo padre alla sala giochi. E allora? E allora quel numero è inattivo da 20 anni. Due notti prima di sparire tuo padre venne a casa mia. Mi annunciò cambiamenti radicali. Scienza, medicina, religione. Non avrebbe mai abbandonato tutto, Sam. Non avrebbe mai abbandonato te. Alan, parli come se dovessi trovarlo lì a lavorare e mi dicesse: ciao, ho perso la nozione del tempo. Sarebbe fantastico. Ma non può essere. Gioco e realtà. Iniziamo da qualche numero. 1 miliardo di persone impegnate almeno un'ora ogni giorno a giocare davanti a uno schermo. Oltre 500 milioni di download e 150 miliardi di partite giocate per Candy Crush, l'inarrestabile social game delle caramelle. 260 milioni di utenti, poco meno di uno su quattro, su Facebook, alle prese con coltivazioni virtuali, dolcetti o indagini criminali. Come trasferire tutto questo tempo, questo impegno, questo divertimento nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nella comunicazione, nella risoluzione dei problemi? Con la gamification, il processo che applica la filosofia, le dinamiche, i meccanismi del gioco, come i livelli, i punti e i premi, ai campi più disparati, dal marketing alla politica, passando per lavoro, educazione, salute, coscienza civica anche. L'obiettivo è quello di costruire un engagement economy, un'economia dell'impegno in cui cittadini, consumatori, lavoratori saranno più coinvolti, più motivati, più collaborativi. Il gioco rappresenterà per il 21esimo secolo ciò che il lavoro è stato per l'era industriale. Leggiamo da Game Change, il libro che l'agenzia media PhD ha dedicato a questa rivoluzione. L'agenzia stessa da tempo ha introdotto una piattaforma aziendale gamificata come sistema operativo interno, con risultati sorprendenti, ci ha detto Vittorio Bucci, Managing Director di PhD Italia. Oggi per gamification intendiamo l'implementazione di dinamiche di gioco in contesti non ludici. La tesi del libro è che questa engagement economy cambierà in qualche modo il mondo. In che senso? Migliorandolo. Migliorandolo perché l'engagement economy è un rapporto che si manifesta non soltanto tra le aziende, ma anche e soprattutto tra le persone, quindi non soltanto nel rapporto tra azienda e consumatore finale, ma anche tra collaboratori in qualsiasi contesto, in un contesto lavorativo piuttosto che in contesti sociali finalizzati alla prevenzione di patologie. E difatti una delle maggiori esperte del mondo sulla gamification, Jane McGann, ha iniziato nel suo Future Institute a creare proprio delle dinamiche di gioco in cui le persone cercavano di immaginare un futuro, ad esempio, senza petrolio. Quindi questo tanto per dare la direzione di sviluppo di quello che può essere la gamification. Come viene usata attualmente la gamification nel marketing? In due modalità prevalenti: per ingaggiare i consumatori finali al fine di migliorare il loro grado di attenzione nei confronti dei brand, dei prodotti, dei servizi servizi dell'azienda e favorire l'esperienza di prodotto. E poi in un altro caso, che è il caso che riguarda anche noi come PhD Italia, per migliorare le dinamiche di collaborazione intraaziendale, quindi la collaborazione all'interno del contesto lavorativo. Secondo Gartner, entro il 2015 circa il 50% delle multinazionali gestirà i processi di innovazione attraverso dinamiche di gioco, quindi siamo di fronte ad un cambiamento che è prima di tutto un cambiamento culturale, no? E che segue il cambiamento sociologico e tecnologico in atto. Voi appunto in PhD avete proprio una piattaforma aziendale gamificata Source, come funziona? Bella domanda. Source è un sistema operativo, noi lo definiamo davvero come sistema operativo globale, perché permette la collaborazione tra gli oltre 2500 dipendenti del network che lavorano in 75 paesi differenti, e permette la collaborazione tra loro attraverso tutte le piattaforme, quindi è ovviamente multi-device e in real time. Qualora mi svegliassi la mattina con un'idea brillante di comunicazione di marketing e volessi condividerla con un mio collega di Shanghai, potrei farlo tranquillamente postandola attraverso il mio tablet o il mio smartphone. Ciò che fa Source è nel nostro caso permettere alle persone di collaborare su specifici progetti, tutelando ovviamente la sicurezza e la confidenzialità delle informazioni, perché si può gestire, decidere, capire chi può avere accesso al progetto, quindi può essere un progetto globale o un progetto ristretto a 10-15 persone, e soprattutto l'aspetto che secondo me è molto molto importante, davvero innovativo, è la democratizzazione del nostro lavoro, perché consente a chiunque, in aziende molto strutturate in cui c'è una ripartizione dei ruoli funzionali allo sviluppo del lavoro, di osservare anche gli altri aspetti che caratterizzano nel nostro caso la creazione di un piano di comunicazione, quindi non fermarsi soltanto a ciò che il collaboratore, il lavoratore fa dalla mattina alla sera come proprio task principale, ma andare a vedere e partecipare, contribuire in modo forte alla definizione della strategia tutta, e quindi andando ad indagare anche altre dinamiche. Avete già in qualche modo potuto misurare i risultati dell'uso di questa piattaforma o comunque confrontarvi internamente sui vantaggi? Assolutamente sì, abbiamo un sistema di reportistica che ci permette di valutare quotidianamente le performance di tutte le country, abbiamo già implementato un sistema di reward basato su badge che permette alle persone anche di essere connotate come super users, come li chiamiamo noi. Quest'anno abbiamo avuto 250 super users, ovvero persone che hanno sviluppato più di 10.000 pings, punti nella fattispecie, cioè che hanno utilizzato Source davvero in modo massivo. Quindi sono quelli che hanno vinto quest'anno. Sono quelli che hanno vinto quest'anno, sì. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Non solo marketing e lavoro, tra i principali campi di applicazione della gamification c'è senza dubbio l'educazione, la formazione. Spillover è una piattaforma per il lancio di app che si propongono di spiegare la scienza ai ragazzi sotto forma di spy game, una missione che si traduce in innovazione sociale, ci ha detto Selene Biffi, che ha ideato e lanciato la startup. L'idea che sta alla base di Spillover in realtà è abbastanza semplice. Spillover mira infatti a trasformare la ricerca scientifica e le innovazioni più attuali in videogiochi per ragazzi dai 10 ai 15 anni, per rendere la scienza più partecipativa, divertente, insomma più coinvolgente. Il 40% dei ragazzi tra i 15 e i 25 anni vede la scienza come assolutamente noiosa, astratta, difficile, e mai considererebbe una carriera in ambito scientifico. questo ovviamente va a scapito di quello che è il sistema paese, la capacità di innovare e, perché no, la possibilità di andare a riempire uno dei 2,8 milioni di posti di lavoro attualmente vacanti. Come avete lavorato sui contenuti affinché si trasformassero in dinamiche di apprendimento? Ogni videogioco verte su una scoperta, su una ricerca assolutamente attuale e viene appunto costruito grazie anche all'intervento diretto di ricercatori e centri di ricerca. Si tratta di applicazioni scientifiche che vertono però su vari ambiti, quindi dalla biologia alla chimica, dalla robotica all'informatica. Il primo videogioco tratta ad esempio di una scoperta fatta appunto da una startup nata in seno all'Università degli Studi di Milano, che riguarda un microbo capace di mangiare l'inquinamento. Si dice che la vostra missione è quella di fare innovazione sociale. In che senso? L'innovazione sociale parte da un presupposto molto chiaro, che è quello di andare a creare prodotti, servizi e sistemi che possono essere finanziariamente sostenibili e che vanno ad affrontare un problema concreto in ambito sociale e o ambientale, quindi propongono una soluzione attuabile e misurabile. Nel nostro caso ci muoviamo non tanto per creare o per formare degli scienziati, ma per appunto andare a cambiare la mentalità di quello che è attualmente una mentalità giovanile rispetto alla scienza. Quindi vorremmo andare a costruire opportunità diverse anche a livello lavorativo per chi oggi non pensa sia necessario investire anche in questo ambito, quindi istruzione non formale per una fruibilità diversa della scienza e dell'innovazione. Siete pronti al lancio della prima app? Manca ormai pochissimo al lancio della prima app, prevista il 13 di marzo a Milano, quindi siamo veramente agli sgoccioli ormai. La strada su cui viaggi John Anderton è quella meno percorsa. Assicurati delle sostegno. Non potrai mai dimenticare. Ricordate Minority Report, il retail ci sta arrivando. Codice a barre di Cristina Lazzati. Continuano gli sforzi dei big della grande distribuzione per far entrare il digitale nei punti di vendita e per sfruttare al massimo le enormi possibilità offerte dalla rete. A capofila di questa ricerca l'inglese Tesco, prima catena di supermercati in UK, che a breve introdurrà schermi digitali in store in grado di riconoscere la fisionomica dei clienti e dedurre quali spot proporre in base ad età e genere. Inizialmente la proposta verrà nelle stazioni di servizio con insegna Tesco. Il sistema non si limita alla persona davanti allo schermo, ma è in grado di condurre una mini statistica di chi è in coda alla cassa, incrociando i dati relativi all'ora e alla data, così da selezionare automaticamente quali messaggi pubblicitari inviare. Ma perché non portarsi via informazioni che serviranno per il futuro? E così Optimize, così si chiama il programma, è in grado anche di dire quali prodotti sono stati acquistati durante la sua registrazione. Il retailer ha calcolato che con l'installazione di 450 schermi e la proiezione di spot della durata di 10 secondi sarà in grado di raggiungere 5 milioni di persone ogni settimana. Frankenstein, allora è tutto vero. Hanno creato 200 anni fa. Nessun altro è come me. La tua forza, la tua velocità, la tua resistenza sono uniche. Puoi usare questi doni in una guerra che ti appartiene. Focus sui trend. Frankenstein, rivisitazione moderna in chiave action fantasy dell'icona di Mary Shelley. Il film appena uscito nelle sale è tratto dall'omonima graphic novel. Introduciamo il tema del focus sui trend di questa settimana. Parliamo di stile neo-vittoriano. Lo facciamo per ricollegarci però ad un fenomeno più ampio, non solo estetico. La traccia è la rilettura in chiave punk, meglio steampunk, delle atmosfere vittoriane nella moda, nell'arte, nella letteratura, nel cinema appunto. Considerata dagli storici la prima vera era moderna, l'era vittoriana ispira un immaginario sempre molto attuale. Ne parliamo con Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Paolo, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi. Qual è il contesto, la chiave di rivisitazione oggi dello stile vittoriano? Lo stile vittoriano è come dire, molto interessante perché presenta moltissime similitudini a livello culturale, a livello tecnologico con l'epoca che stiamo vivendo oggi. È stato il periodo della diffusione di tutte le tecnologie di comunicazione di origine elettromagnetica, diffusione del telegrafo, il primo cavo transoceanico. Quindi anche a livello di comunicazione il mondo si è veramente aperto. Possiamo fare abbastanza facilmente un parallelo con l'epoca digitale che stiamo vivendo. Quindi l'epoca vittoriana è stata un'epoca di grandissima trasformazione all'insegna dell'universalità, quindi di un grandissimo allargamento. Questo cosa ha significato dal punto di vista estetico anche, cosa significa dal punto di vista della cultura visiva? In epoca vittoriana c'era una grande lotta tra modernità e antico, c'era la cosiddetta battaglia degli stili, si parlava di stile neogotico, si parlava di recupero, si parlava invece anche di guardare avanti, con una grande contrapposizione che può essere un po', se vogliamo, la distinzione che noi facciamo tra globale e locale, no? Questa antinomia che diventa sempre meno forte, peraltro, tra globale e locale, tra passato e futuro, tra chi vuole immaginare un futuro pieno di tecnologia e chi invece vuole tornare al contatto diretto con la natura. Quindi non è un caso che diciamo le dinamiche anche, se vogliamo, positive dello stile vittoriano, dell'epoca vittoriana, siano così attuali anche oggi. Sono molte le declinazioni cinematografiche di questa tendenza. Sicuramente, perché oltre a Frankenstein, ad esempio, aspettiamoci un grande ritorno di Sherlock Holmes, ad esempio notizia di qualche giorno fa che insomma sono scaduti definitivamente i diritti sulla figura di Sherlock Holmes, ma è anche, come dire, una coincidenza abbastanza fortunata, perché proprio i romanzi di Sherlock Holmes sono ambientati in quel periodo, un periodo tra l'altro che da un punto di vista estetico è molto ricco di simbologie, e questa è un'altra cosa che lo avvicina moltissimo alla comunicazione contemporanea. Sempre parlando di trasformazione e universalità, noi siamo sempre alla ricerca di linguaggi universali, di linguaggi comuni. La simbologia vittoriana molto spesso si avvicina a quello che è l'immaginario dell'alchimia, l'immaginario anche gotico, no? In epoca vittoriana c'era il ritorno del neogotico. Quindi una simbologia che è fatta di segni riconoscibili come croci, teschi, mostri, eccetera, che ritroviamo anche in molto cinema oggi, ma anche troviamo in moltissimi videoclip. Penso ad esempio ai videoclip di Woodkid, musicista e videomaker francese che è stato ospite anche all'ultima puntata di X Factor, è stato ad Elita Festival di Milano lo scorso anno, oppure altri musicisti francesi, Justice, che hanno una croce come simbolo, usano una croce e i loro concerti sono pieni di simboli massonici, esoterici, che in un certo qual modo possono essere abbinati all'immaginario vittoriano. Non è solo però, dicevamo, una contaminazione estetica. Allargando lo sguardo, verso quale delle tendenze che voi state mappando si ricollega questo fenomeno? Abbiamo identificato una tendenza estetica e culturale che abbiamo definito vibrant alchemy, quindi proprio l'alchimia vibrante, una sorta di alchimia colorata, di alchimia fatta di simboli ma che non sono necessariamente cupi, gotici nel senso più tradizionale del termine, ma che possono rimandare anche a un mondo di simbologie più positive. L'alchimia, la trasformazione della materia, la trasformazione delle cose. Possiamo fare un parallelo abbastanza diretto, ad esempio, con la genetica, con la trasformazione del corpo che fa sempre più parte anche della comunicazione e dell'estetica contemporanea. Pensiamo a un personaggio come Lady Gaga, ad esempio, che punta sulla mostruosità e fa della mostruosità sinonimo di originalità. Un designer come Alexander McQueen, oggi diciamo il suo lavoro viene proseguito da Sarah Barton, però diciamo come brand, come immaginario, lavora proprio sulla ridefinizione di un corpo che è al limite del mostruoso, al limite del geneticamente modificato. Un designer più giovane, ad esempio l'inglese Gareth Pugh, che buon erede diciamo della scuola della linea di McQueen, porta avanti questo mondo fatto di teschi, superfici riflettenti, corpi, simbologie legate all'anatomia. se vogliamo fare un estremo con la comunicazione digitale contemporanea, che cosa sono gli emoji, le emoticon, se non degli elementi di un'alchimia contemporanea di comunicazione? Quindi croci, teschi, eccetera, lasciano il posto, se vogliamo, a faccine sorridenti o a simboli di varia natura che semplificano la comunicazione, sempre nell'orizzonte di una universalità, questa volta di matrice digitale, che consente una migliore e una più diffusa comunicazione. Italian Factor. Prosegue il nostro viaggio alla ricerca dell'Italian Factor, virtù dopo virtù, fattore dopo fattore. Stiamo tracciando un cammino che intende individuare ed ispirare i valori di eccellenza del Made in Italy a beneficio di chi compra e di chi vende, come da sempre usiamo dire noi di essere e avere. Un viaggio in compagnia di Francesco Morace, ben ritrovato. Buon pomeriggio a tutti. Siamo al giro di boa per quanto riguarda i fattori potenziali, abbiamo parlato di prossimità, felicità, memoria e occasione. Oggi, Francesco? Oggi parliamo di tipicità, ma in modo italiano, e abbiamo creato un termine che è arcitipico, che definisce non solo il folklore, a cui spesso viene ricondotta la tipicità, ma anche degli archetipi locali profondi, da cui proprio arcitipico, qualcosa che ci appartiene profondamente e che anche gli altri negli altri mercati possono apprezzare. Dal tipico all'arcitipico, che cosa cambia? Cambia tutto, perché il tipico è tradizione, l'arcitipico è un progetto che sia in grado di rendere universale una nostra qualità locale. È proprio quel passaggio necessario all'Italia, è un passaggio strategico tra la produzione locale, il distretto e quanto viene riconosciuta come italianità in qualità della vita per tanti altri, e il mondo dell'enogastronomia e dei prodotti tipici che vengono però proposti anche negli altri mercati ne sono l'emblema. È un fattore che può essere applicato anche alla valorizzazione del carattere artigianale dei nostri prodotti. Assolutamente, gli artigiani sono grandi produttori di arcitipico, molto spesso però non hanno la capacità di espandere la loro attività e di proporla, di raccontarla nei mercati esteri. Quindi l'arcitipico propone invece un progetto che sia anche un progetto di sistema, no? Di un'Italia che è in grado di proporre nel mondo queste sue qualità uniche. Leggo da Italian Factor, il libro, Francesco, nato proprio parallelamente a queste nostre conversazioni sul Made in Italy, un'altra definizione vicina al concetto di arcitipico, soft economy. È una definizione, anche il titolo di un libro importante di Ermete Realacci di qualche tempo fa, che dimostra come in realtà il sistema economico italiano abbia logiche che arrivano dal territorio e che non sono così hard, non sono legate all'industria pesante, sono legate alla nostra capacità di produrre qualità e spesso anche con un'attenzione all'ambiente. Quindi su questo sicuramente bisogna giocare le nostre carte per il futuro. Francesco Morace, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi. E grazie anche a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina programmi di Radio 24. Scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti. A sabato prossimo. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.